Cioè, quello che vuoi fagli, però posizionati vicino, così al prossimo turno. Se vuoi fagli un attacco, una magia, quello che vuoi. Ok. Posso fare le frostbite, no? Beh, l'idea. Okay. Non so se sono immuni e non letali. Facciamo una prova? Conoscenza, ingegneria, tipo 17, non lo so. Beh, sai che in generale i costrutti sono tutti immuni. Sono tutti immuni e non letali. E quindi niente, non fare frostbite. Pitch. Faccio raggio di vento piuttosto. Sempre raggio bello, vente, pace. Vai. Ok. Io lo fai prima di spostarti, allora. Ok. Devo tirare... Di 20. Di 20. No, sì, sono 5. Sono 3. Lo fai? Ah, su. E 3. Vai. Concentriamoci una alla volta. 16. Ah, allora dove sei andato? Io sono qua. Sempre... Io lo chiamo Power Attack, però. Non posso usare Ragno Strike. Ragno Strike, sì. Allora fai R2. Ma in questo caso non si... A picchiare 2? Sì, così uccidiamo uno, no? Vero Giulio? Aspetta, te, picchiare 2. R2, dai, su, dammi. Ok. Sei qui? Sì. Vabbè, ma non disegnare tanto in... No, non disegnare. Ok. No, era per i raggi, sai, visto che non poteva col pensiero farlo. Un D4. Un D4 ti serve? Sì. Ecco qua. No, scusami, un D6. Un D6. Perdona. Non mi sono stato un naso. Lancia due volte uno di quelli. Ah, tieni. No, te ne ho già rubato uno. Perfetto. Grazie. 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, secondo attacco. Sempre sullo spazio. Secondo raggio. Vai con secondo. Ma hai fatto per colpire. Deve farlo. 2 più 1. Colpito. 21 adesso, no? E 16 più... Devo fare... Ma così tanto sommi, sommi un po' meno, non tiri i touch, È solo la tua destrezza, scusate. Però comunque un po'. La tua destrezza tu B. 3 più 9, 11 più 5. Comunque colpito, dai. 6, 12. 12 più 6 fa 18. 18. Bene. Ancora... Okay, sì. Un altro. 7, quella prima, quindi l'ho colpito. 11, 11, 18, 19, 20. No, 18, 19. Okay. 10, 16, 18, 16, ok. 18. Grazie. Magari anche tu la tira da di tra poco. Sì, sì. Sì, sì, prendiamo tempo. Ok, tocca a Damasco, vai Damasco. Com'è? Sì, shottalo. Cioè, io devo per forza usare Damasco la mia app tiradadi. Esatto. Tu. Guarda che la app tiradadi fa i tiri in media, quindi se sei sfortunato è meglio. 3. 3 più... Dov'è? 18. Colpito. Ma dash sempre. Sì, esatto. Sì. Dove quello. Quindi devo fare con questa cosa. Stai colpendo, scusa. R2. Okay. Oddio, no, stai, sì, diciamo, sì, sì, R2. Mi fa quello normale perché loro non sono niente. Stai usando Power Up. 28. Cioè, Power Up Gladiator, no? 28. Okay. Fatto default, giusto? Sì. Ok. Top, vai. È bello come... C'è Haste, quindi non uno in più, vero? Sì. Bravo. 16, l'ho preso. Solo il raggio vento, non hai fatto, non sei andato ad attaccare poi. Sì, si è spostata. Mi sono spostata. Prossimo turno attacca. Ok, va bene. 33. Crappoli grandi, illimitati. Cioè, 14 più 10 l'ho preso. 35. 35. Quanti anni fa? 10 più... L'ho preso 20. 32. Aspetta un attimo. Cosa sono tutti i miei bambini? Adesso vedi chi ne ammazza anche avevo uno, ero che avevo io, non riesco a parlare. Ah, quello prima era morto. Cioè, quindi gli ultimi danni che hai fatto quanti erano? Falli su R1. Gli ultimi cancellate due, R2. 32 e 35. No, l'ultimo. 32. Su chi l'hai fatto? Era su R2, ma se R2 è morto lo faccio su R1. Adesso io quello qua, poi devo lavorare fino a qua, dai. Ok. Quinto attacco, giusto? Sì. Quinto e ultimo. C'è l'haste di suo. Ma l'ha già fatto. L'ho già fatto? Cioè, contiamo con già fatto? È il primo. Fatto il primo. L'hai fatto per il secondo. Devi fare i primi due. Allora devo fare il 5. Sì. Allora. Lui 6? Sì. E sì. Quindi 3 di AB. Ma no, scusa. Come fai a farne 6? 1, 2, 3, 4, 5. C'è anche rapid shot per quello. In ogni caso sì, sono perché, 5 sì, qua. Sì, perché c'è anche rapid shot. 5 qua.

Vuoi come in get me? Sì. Ma non posso farlo, penso, sì. Perché no? Non lo vince. Ah, giusto. Cioè, per quello te l'ho chiesto. In effetti era una buona tattica per invalidarlo, quello, tenere sempre il mostro un quadretto indietro, così non riesce a fare il cannon getting, però con il lung facilmente girabile. Sì, bene, non l'ho mai preso. Ok, colpisce una 29. Io la voglio, se più di 20 colpisce. Ok, va bene, sì, come al solito, standard, diciamo. Sì, il barbo che è già 25 è già tanto. 16 danni. Segniamo. Questa è una 12 danni. Nove danni. Minchia, per fortuna basta il 2. Basta non fare il 1. Beh. 14 danni. Poi ti fa un raggio di... Ho già su 39 danni. Come cazzo me ne frega, raggio di freddo. Fammi anche io salvezza riflessi. Uno dei suoi occhi c'è un raggio polare. Ho fatto un 20. Che ti sfiora la guancia. No. Jeez, sono di fuoco. E accendo le braccia. Sì, le accendo le braccia. Ti guardo più il kunai. 9, profondo. No. 9 e 9, 18 e 4, 22. Anche io, non è mai. 22, 6, 28 e 5, 32. 3. 33. 33 e 6. 39 diviso 2. Sì, Jason. Sei sicuro? La tolta non ho detto di sì, però... Sai che... Perché era senza schede quando mi sa che l'abbiamo fatto, ha detto che c'era Evasion. Solo lo cerco. Non sono sicuro c'era Evasion. Vorrei fosse un Rage Power, forse. Se Evasion non ho tirato per niente, perché... Nedi, il danno. No, ce l'era su... Era su D&D, non su Pathfinder, mi sa. No, figurati. Evasion Reach, livello 5. Ma tu non hai preso archetipi, vero? No. No, è sull'archetipo. No, non ce l'hai, Evasion, no. Fasmo, guarda, il drip power, che ne dorge. Corpsent, drip power, tu che ne dorge. Corpsent, drip power, 39 diviso 2. No, non ce l'hai. Non ce l'hai, non ce l'hai. Niente. Ah, 39 diviso 2 fa 19. Sì. Ok. Ok, e ti morde. Mm-hmm. Ti colpisce, anche continua a tirare numeri sotto il 4. E ti fa qua 8 danni. In più prova a tirarti con sé nella lotta. Mm. 30 CMB e ho 33 di DMC. Allora fallisce. Aspetta, gli ha dato un bonus a grapple, si sì, ce l'ha. No. 34. Cazzo. No, oh. Ah, East, è vero. 34, 34, quindi ce la fa lo stesso. Ce la fa lo stesso. No, però... sì, ce la c'ho... Niente, egoismo non fa un cazzo di Non c'hai più niente. È finito. Sì, perché c'hai il pro grappolo. No, non è vero. Boh, perché c'ha... Boh, sarà fatto un mostro, però. C'è scritto qua. Vabbè, c'è scritto. A grappolo. E poi, scusa, perché tipo la CMB è più alta del tiro per colpire? Come cazzo è possibile? Somiglia anche la... No, destrezza. No. Boh, non lo so. Avrà dei bonus. Magari è sbagliato. Magari l'hanno scritto sbagliato. Dai, in grappolo. No, tanto c'è il kunai, puoi attaccare in grappolo. Anche se fosse stato così, quindi... Tanto puoi attaccare col kunai. Non so. Più forte adesso. Tra l'altro, essendo tu in grappolo con un mostro appeso, non è che gli far prove di volare, direi, no. Beh, no. Ma cosa fa accadere, ti pare? No. Ma dai, quindi io posso... Se no deve spostarsi per forza, in teoria. Quindi mi sembra che una... Io adesso posso picchiarlo col kunai e fare anche una clue in più, volendo. Eh sì. Quindi 5 attacchi. Figo. Faccio giù. Dai, ti tocca. Tocca a voi. Tocca a me. No, scusa, tocca ai ragni. Ah, tocca agli altri ragni. Gli altri due ragni colpiscono il muro di ghiaccio. Quanti DFA e Arnes? Pochi. Zero. E beh, per sapere, sono giù con un colpo. Va bene. No, però poi sai cosa? Devono far giù due pezzi, no? Ciascuno, perché loro sono l'altro. Eh sì. Ah. Però possono shrinkarsi. Ma per uscire, shrinkarsi, non lo so. Mm. Non fanno i raggi? Da lontano? Ah, giusto. Dai, facciamo anche fanno. Vedi, mica fanno un raggio con la free action, giusto? No, mica un raggio, diciamo, di caldo anche. Quindi non. Fire ray. Dai, no. Lo fanno per distruggere il wall? Ok. Io su 60 danni, sono tristissimo. No, no, beh, mi sa che va giù anche perché sicuro, non c'è Arnes contro, contro gli incantesimi così. Cioè, contro gli incantesimi nel supernato non c'è Arnes di solito. Sì, sì, ma quindi ok, si toglie il pezzo e loro arrivano da voi con una move action e possono fare un attacco. Fanno un attacco contro Damasco e contro Eleni. Eleni, scusa. Tranquillo, tranquillo, non è un problema. Sbaglio sempre, dica un problema. Deve francese. Eleni. Eleni. È come cupe. Ok, tu? Ah, scusa, che poi non te l'ho chiesto. Lei uno non avvicinandosi non prova attacchi di opportunità da me a lei? No, si è lontano. Ah, ok. Ha tipo una roba tipo 30 pf. Ok, sì, va giù. Fa 40 io. Sì, sì, va bene. Ok, quindi fa. Ok, che abbiamo. Che cosa? Ti fa 10 danni. 38. Mm. Oh, sì, sì. E prova a entrare in grapple. A me? Cioè, io odio il mio lavoro. Cazzo. Quanti danni hai? Quanto hai di CMD? CMD 2. 16. Sì. Decisamente. Ok, sei in grappolo. E lo fa anche con te, chiaramente. Okay. Cazzo che risolvo. Prima prova a colpirti. Io torno nel piano. Colpisce. Aspetta, tu quanto hai di CA? Perché io ho pensato che ti colpire prima. Io? CA? Sì. 23. Sì, ti colpivo. Tu quanto hai di CA? 20. Cazzo, ti colpisce con due. Le super 7, 6, 13 danni. Ah, ok. E prova a entrare in grapple. Ci riesce tranquillamente. Anche tu sei in grapple con lui. Bene. Ma lo stesso, no? L'altro. Grapplati. E l'altro, giusto? Tocca a me. In grapple. Beh, molo meno. Aspetta, vai. Io vado in bagno. Ma qual è il grapple, scusa? R3. Primo attacco con col kunai con l'ace. Sì. 20, minaccia di critico. Dai. Era morto, no? Danilo, 20, minaccia di critico. Bravo. Guarda che bello. 20, quindi 20! Sai qual è questo dado stronzo? Guarda che mi l'arma. Ti sei grapplato che non mi ricordo con R1. Con R1. Quello pure messo male. Impara a comprarmi l'arma. E adesso vedi cosa ti succede. E io ti rambi la tua. Ah, i tuoi mostri. Quanti mostri di merda. Bacchus Revenge. Sono. Non dovevi distruggere il faccio. Ora sì. Posso controbattere. Bam, bam, bam, bam. È più forte in grappa. Già nella furia. Gli spacca il cuore nei circuiti. Vai, vai. Sono 50 danni. Cosa? 50 danni. Col kunai. Col kunai, cioè. Grande. Aspetta un attimo. Dimmi che è morto. Sì, che è morto. E adesso lancia la carcassa contro questo qui. Lo c'è al wifi? Così faccio adesso. Sì che è morto. Ah, no. Secondo attacco. No, aspetta un attimo. Secondo. Devo essere un attimo. Sì, è morto lo stesso. Ah, perché si riprendeva i piedi. Ah, fastidio. Giulie, è tua questa? Sì. E uno è andato. 7-4-2. Bravo. Cielo. Puoi muoverti perché hai fatto un attacco solo. S. Grande. Sì. Sì. 7. Ace sempre grande. Ace? Sì, sempre grande. Lei è a terra, giusto? Non sta volando. Yeah, io sono grapplata. Quindi sono grapplate. Ma sono grapplate in aria o a terra? Cioè. Dai, di a chi ti va qui vai vicino. Eh no, perché R3 forse. Sono a terra, sono tutti e due a terra perché hanno dovuto raggiungerle. Ok, allora vado vicino a R3. Che è quello di Damasco o quello di. Quello di Damasco. Non so. Questo qua mi è più vicino. Che siamo quello tutte e due grapplate. Quello di Damasco. Anzi, no, faccio un passo a metro e mezzo e vado vicino al suo. No, non fai un passo a metro e mezzo. Non è così vicino. Non è abbastanza vicino. Poi tu eri in alto. Dai, no, vabbè, dai, mi muovo qua. Pure in alto. Sì, sì, sì, è vero, mi muovo vicino a, vicino a R3. Insomma, R di Damasco. R3 non so chi sia, è quel primo che è beccato. Io sono su R3. Okay. Cioè R3. Vado io?

Sì, ma il dubbio è che carico. No, non ho colpito. Non posso caricarlo. Quanto è alta la stanza? Ma basta, un attacco solo. Ah. L'alta, la stanza è alta più di 20 piedi. Sì. Ma così. Scusa, per curiosità. Uno. Va bene, scusa. Scusa, perché è un attacco di opportunità. L'attacco di opportunità. Ma io sono l'intelligenza, gli attacchi di opportunità. Ma se è un quadretto solo a che minaccia. Cioè, ma quanto. Cioè, quello è il tiro per colpire che sono, cioè, nel senso. Quanto hai fatto totale? Ho tirato 8, non penso che l'abbia colpito. No, perché dice ho faccio attacchi di opportunità perché. Però se viene provoca più di uno, funziona così. Ah, ok, scusa. Sarà un po' forte. Ma su tutti provoca attacchi? No, solo su loro, che l'ha portato. Ok, tocca a. Damasco? No, mica Damasco no. Damasco no. Da lì ci arrivo, no, vero? Sì. No, devi spostarti. No, devi perché essere più vicina perché da lì non è touch, devi essere intorno a 30 feet, tipo per essere touch. Quanti quadretti sono? 30 feet sono due. No, scusa, sono 6 quadretti. 6 quadretti. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadretti. Posso mettere mezzo può fare. Ah, quindi se fa un passo. Sì, però non ha. Ah no, sì, sì. Sì, sì, perché tu devi decidere un suo angolo e da quell'angolo devi vedere tutti gli angoli. Che figo. Lo vedo così. Mm-hmm. Damasco sì, qua. Sì, perfettamente. Vai, Damasco. Facci segnare. Non vuoi... Se sì, qualcosa vai. Da... No, ti potrei fare istmo, non conviene contemporizzare. Proviamoci, regà. Ma io... Domanda. Io posso entrare... No, scherzavo, cosa sto facendo? Posso andare direttamente... Posso fare gli attacchi del two weapon fighting o del deadly aim o posso mischiarli? Adesso farò la cosa più figa del mondo, eh? Non ho capito cosa vuoi mischiare. Devo fare solo gli attacchi del two weapon fighting e solo gli attacchi del deadly aim? No, puoi mischiarli. Infatti questi sono posso mischiati, mischiare? Tipo sono 6 attacchi. Sì, ma ok, ma solo del secondo. Sì, ma solo del secondo attacco e sono diminuiti. Certo che sono diminuiti. Che perché poi... vabbè, faccio degli... Proviamoci. Sono morto. Moltissimo. 18. Mancato. Cosa? Mancato. Ciao. È un monaco. Ciao, insomma, 6 solo perché è monaco. 25. Colpito, ma... Fa così, zoom, evita, e devi il proiettile con la mano. Ma non ho neanche fatto. Ma è un immediate action? No, si chiama deflect arrows, però ho scritto funziona contro i ranged attack. È automatico. Quindi... Solo sul primo. Ah, ok. Ti detesto di più. Anzi, fa così, no? E il proiettile si ferma in mano. Fa. Che figo. C'è ancora Ace? C'è Ace, perché dici prima di me. Dopo lo se vuole faccio io. No, lo faccio io. 16, okay. 16 più 6. 16 più 6. 22. Mancato. Non capisco. Ma ha tirato 18. Però è il terzo attacco, insomma, solo 6. 15 più 6? Niente. Tra l'altro, ma dai, ma che palle! Sì, oh mio Dio, ormai non lo confermerà. Oh mio Dio, se non porca credo. Troia, non lo confermerà mai, però vabbè. 20! Sì! Sì, sì, successo sì, automatico! Fermi! Se ne va, il master si ritira. Ok, però io adesso devo fare grande. Il critico qua, no? Il teschietto. È molto eloquente. Tutto, no? Sì, è il teschietto. Aspetta un attimo qui. No, non fare nient'altro. Non puoi deflettere questo critico. Magari. Esatto. Quindi? Alla mischance di... Bleed, precision damage, pause, paralysis, sleep, standing there. Cioè, critico. Ah, è immune su tutto quello che è immune. Non è immune. Però così vuol dire che dopo vorrà uccidere me. Aspetta, innanzitutto vediamo se io qua questi PF, i 3 di 6 valgono. 3 di 6 per cosa? Posso fare il mio critico? Sì, fai il tuo cazzo di critico che ho fatto 2,20 di fila. 80. 80 danni. Torni a casa lì. Tanta danni così per gradire per cominciare più 1 81 perché era entro 30 feet più 4 allora più 4 allora c'è già scritto mi sa sì è già contato 80. Non ti arrabbiare con me adesso ma molto bene. Pino. Papi, le trive non faranno quelli pietrificanti di raggi. Sì, vabbè, se ci vuoi uccidere. Giulia? Sì, sì. Cioè, ce n'è un altro pacchetto se vuoi. Sì, vabbè, lo chiamo. Premio per il frizzo, meritatissima forza di patatine. Meno male, cioè. Meritatissimo, tanta danno così. Mi faccio ancora accesso. Ok, retriever. Golden retriever, che fanno? Mi ho detto una cosa meravigliosa. E adesso questo fa un raggio su di te. Lo volevo. Fai tiro salvezza riflessi. Ah, prendere il corvo! Sì, no. Uno. Bene. Che sfiga. Ok, 16 danni pieni. Fallimento automatico. Prova a lamentartene dopo quel 20 di conferma automatico. E vedi. Ultime parole famose. Lo confermo, bam, 20. Se lo confermo io. 20, ho detto è più 20. No, tu hai 36 più 20 danni. A una conferma, un critico. Segnali. Intanto che non sono raddoppiati. Tu hai più 20. Hai critico. Mi caghi? Eh beh, non è male. Dici che posso farlo? Corre. E ti fa un morso. Tu è basta. No, scusa, non ho nessuna attacco che colpisce. Colpisce. No, chiaramente, okay. Entra nel quadretto minacciato. Colpo curato. Sì. Scusate. Così colpo si mette. Colpo curato è quello swift action. Danilo, così, guarda. Non c'è il tiro per colpire. Qua. Ah, no, perché è un massimo action. Okay. Mi capito? Sembrava strano. Quindi o fai quello o attacchi. Non... Che tristezza. Ti fa 8 danni. Non si può fare. E prova a entrare in grapple. Ci riesce. Sei in grapple. Come te la prendi? Come te la prendi? Cioè. Se invece io ancora vado a prendere. R2. No, grazie. Passa cosa, ma su Eleni. Devo tirare? No, sì, devi fare TS, sì, grazie. TS, scusami. Riflessi. Sì. È la mia vittoria. 26. Sì. Di mezzo. Ha tirato alto. 24 danni, già dimezzati. Ok. Praticamente come lei, ma il tuo legno di mettere già dimezzato. Cosa vuoi? Ma no. Non mi tocchi. Devi ammazzarlo. Se non devo ammazzarlo, tra l'altro. Secondo me. Chi? Lei. Io non sono. Lei in grappa. Io no. Io ammazzo lo cagno. Segnatemi R2 lì. Tanto comunque posso sparare in grapple. Prova a morderti. No, prendi attacchi d'opportunità. Ma sono in grapple? Eh sì. E mi dì. Quanti danni prendo? Adesso dico. No, scusa. 9 danni. Prova a entrare in grapple. Ok. Sono proprio stesa sopra di lui. Entrambi siete in grapple con i ragni. Giusta benedizione, direi. Lo schifo. Tocca a Avram. Appaiono 6 Revenant. Cosa? Appaiono 6 Revenant. No. Oh, come se non fossimo già messi abbastanza di merda. Ho 35 PF, sono morto. Come hai 35 PF? Hai idea di quanti danni tu hai? Beh, ma tu sei poi entri in ira, no? Sì. Capito. Prendi un altro pochino di PF. Sì, ne vedo 40. No, arriva a 70. Potevo uccidere. Ci arrivo. Sì. Infatti ho pensato che stessi pensano tanto apposta per evitare di uccidermi. No. Perché volevate stare un po' come era lei. Semplicemente ho fatto un po' di...

Ma no, perché adesso ci sono pure i ragni da far fuori? Che cazzo se li ricordate? I ragni di merda. Scapperanno. Ma era 17. Ma i ragni contano nella farraccheria mentale. Avete ucciso un CR16 più mille cose prima? Mi sembra equilibrato. Ecco, un certo sì, che abbiamo perso un'arma, ti ricordo. Sei d'accordo che questi tre denti ci hanno salvato la vita? Vabbè. Fai così. No, non me l'ha passata l'immagine. Sì, certo. Dai, non volevo fargli fare una cosa strafiga. Ricordi logica. Dai, comunque è morta. Cosa stai cercando? Infatti, che cazzo il link quello che mi hai inviato. Ma Simone, ma sommerai la forza a sto cazzo di morso? Solo quello. Cioè, non mi ricordo se è solo quello. Sì, la forza e basta, sono le unghie comunque. Quindi è 31... 31 meno 10, 10 danni per 2, 20. 20 oh. Più 5 danni, 25 danni. È morto? Devo controllare. Oh, mi sa di sì, anzi quasi sicuramente, vediamo. Mi ha messo così male. Ah, scusami, 80 danni. Scusami, c'ho un D6 di fuoco. C'ho anche un D6 di fuoco. Un attacco. C'ho un D6 di fuoco, gli faccio 5 danni. No, in teoria se fossero stati almeno 10 avresti recuperato un PF. Però non ti fai niente. Scusa, è super mastro mega fuoco. Ah, già, già. Mastro Lindo del fuoco. Sì, è morto. Sì. Te l'avevo detto che c'ho il culo a capanna. Sì, tacci, culo di stai me. Zitto, dai, guarda. Dice, sì, tacci, culo di me. E poi muore. Non è che muore, diventa una nubetta gassosa. La lampina funziona così. È un vampiro? Sì. Infatti per quello non avete fatto fare una cosa strafiga. Che voi eravate in fin di vita, lui doveva mordervi, uno di voi diventava un vampiro spawn suo, poi lui moriva e quello lì restava un vampiro free will. Oh mio Dio, fammelo! Il vampiro, cazzi vostri, avete voluto uccidere lo spawn di critici? Cioè, restava un vampiro uber forte, quindi ci sì, potenziamo. Sì, uno di voi diventare un vampiro, invece no, cazzi vostri, sto oh, mordendo. Adesso io vado lì, prendo la testa. Faccio enervation e lo curo. Fagli quei cazzo di cose di fuoco! È vero, i bacianni di fuoco! No! L'altro è appunto sì, perché poi recupera cioè, il fatto che poteva fare grappolo con una action gli consentiva di... Perché lui per mordere deve tipo entrare in grappolo e poi pinnare. Ah. No. Però in quel modo poteva fare un round sole. Ma se... No! Sì, quindi ma non il fatto è che corpo. Uno di noi si smette calcio. No, non resta il corpo. Cioè io non posso andare lì a attaccarmi sui denti e fare così? Sì, perché si cioè il suo tipo casa terra... No, diventa una robetta gassosa che tipo... Va a rifugiarsi in una bara che c'è lì vicino nella stanza. Quindi dobbiamo fare fuori anche la bara. Perché sennò lo si ritira. Mi sa che prima dobbiamo concentrarsi i ragni. Dovete uccidere i ragni, esatto. Che si tenesse un po' male. Beh, lui si rigenera. Immagino che i ragni saranno molto contenti. Attacco con l'acqua. Che culo, che della, culo Madonna. Della Madonna. Bravo, però che culo. Cosa t'ha lui, detto? Lui ha detto, quando tu gli hai detto subito, tu c'era, ma stai zitto che culo di me. Ha detto proprio così. Non me, io ho detto, I'm back, bitches. Lo spirito di Agoroth. Così impari. Rompimi ancora l'arma che ti faccio più attacchi. Il critico con la clone non si può sopportare. Ma sai perché ho fatto la clone? Perché non avevo la mia arma. Altrimenti non c'avevo la clone. Hai visto com'è il mondo? Ah, perché non combatti sempre col culo, eh? Ecco. Quasi. Madonna che roba. Vabbè, allora... quindi adesso a chi tocca per i ragni di... Dici tu. Tocca a voi. No, aspetta. No, tocca ai ragni. Tocca prima a Eleni. Ah, grande. Hai il culo a strisce. Cioè, io ho più attacchi qui. Che se vuoi puoi fare... No, vai. No, dimmi. Ah, no, aspetta. No. La damage reduction. No. È ancora vivo. Minchia, sei ancora vivo. Seriously? No! No! Ok, mordimi. La bara si riapre in speed motion. Si riassembla, lei che poi torna sopra. Ma cosa è successo? Ma déjà vu. Oddio. Beh, ma i primi attacchi l'avevi tolta però, eh. Ma solo al suo no. Al suo no. Solo al suo no. Quindi è morto. No, anche al suo no. Cioè al suo critico non l'ha detto. Anche agli 80? Sì. Quindi è ancora vivo abbastanza. Quindi ci avrà un'altra ventina di PF. Sì, sta bene. Cioè nel senso... C'ha un'altra ventina di PF. Beh, oddio. Una ventina... Sì, circa. Per dire, no? Beh, allora tocca a lui. Faccio l'altra clou, scusami. No! Non c'è un'altra clou. Ma c'è un lì. Siamo morti. Siamo tutti morti. Davide, siamo morti. Allora. Potevi cliccare due volte, no? Certo. L'ho disegnato. No, non lo disegniamo più. Cos'è sto rewind? Mi sono sbagliato. No. No, ormai era morto, basta. Giusto il suo turno me ne sono accorto, se no a quel punto hai detto cazzo, vabbè, ormai è morto. Invece no, invece no, sì. Allora. Vabbè. No. Tu quanti PF hai? 35. Meno. Stacca, no, meno. E ne ho 74, sono 94, sono 20. Allora pochi, sono 20. Minchia. Un attacco, vabbè. Mi spiega di attacco. Però sei critta, sei morto. Sì. Ah, prova a entrare in grapple con te. C'ho il coming. Con chi? Con lei? Sì. Con chi entra in grapple? E ci con riesce. Te. Quindi prova a pinnarti e, e fa così. E prova a succhiarti di sangue. Che figo. Ci riesce. Ok, prendi quindi. Ah, minchia, ma tra l'altro... Vabbè. Cosa? Riesce uno stare. Per vostra, cosa? Per vostra fortuna. Cosa? Che faceva anche uno slam attack alla fine che faceva due livelli di due livelli negativi. Vabbè, poi cioè questo cos'è un 17, cioè certo. Cioè, 17 da me blindato è diverso. Certo. Ovvio che non è come il 17 del manuale del manualino del Your Dead is NPC, esatto. NPC Codex. E ti prendi il manuale degli stronzi quello. Un danno alla costituzione, ho tirato uno. Però comunque prendi quindi. Prendi 10 danni. No, 13 danni. Cioè come se prendessi 13 danni. Vai. Ok. Quindi ho più 2 danni alla forza e più 1 alla costituzione. E lo vediamo emergere dal collo di lei con i canini grondanti di sangue. Sì, esatto. Sangue blu, perché tu sei. Sì, sangue blu. No! Cosa le sta facendo? Posso fare una prova per capire adesso? 21. Vabbè, dai, capisci un vampiro. Che è un vampiro, dai. Non capisco. Tocca a te comunque. Lo sanno tutti. Com'è? Che non siamo commestibili. Però sei in grappolo. Ah, e quindi. E poi fai l'attacco. Sì, perché è una mano a mano. Posso fare Black Panther? Ma è solo l'altro? No, picchialo tantissimo. In grappolo non puoi fare incantesimo. Allora faccio... devi picchiarlo e basta. Menalo. Full attack. Prova col almeno, magari un attacco col con lo shocking blast. Full attack, quindi vuol dire senza paura. Non puoi fare incantesimi. Non puoi fare incantesimi. C'è anche una punta di chi? Cioè non neanche solo in canale in questo caso, quindi sarà meglio con no, senza. Ascolta un attimo, ma quant'è la DC in grapple? Se fa l'incantesimo di livello 0 è 15 più 2 livello di incantesimo. Posso fare comunque non può fare l'aite per capire. No, posso fare l'aite, sempre sbagliato. Perché si può fare solo il target e object, cioè, quindi non puoi attaccare un mago. Vabbè, è un cazzo, d'altro di livello 0 fatto apposta per cui non si può fare, cioè ovviamente. Sì, io. E guardi, Magus non ha nessun incantesimo di livello 0 con target creature, infatti. Sì? Cioè. Vabbè, object, gli miri all'avambraccio. Attacchi l'oggetto se vuoi. Ma non 29 lui, cioè. Più haste. Attacchi l'armatura, attacchi quello 30. Che vuoi. Hai certo. Meno 2. Niente. 28. Quindi niente haste. 28. Mancato 28, tipo. Sì. Quindi basta, solo un attacco. No, puoi fare il pull-up. Mamma una mano. No? No. Lasciamo stare? Cambia il dado, hai preso quello nuovo. Ma non l'hai fatto, Ace? Sì, che l'hai fatto. Sì, l'ho fatto. C'era ancora uno. Ma mi hai detto che me lo tolgo. No, è il bonus di Ace col meno 2. 20. Vedi che usai il dado che ti passo io. 20 sul dado. Sì. Vedi che a usare il dado che ti passo funziona. Usa questo. È veramente un po'. Ma è il primo, dai! Devo confermarlo. No, non è il primo, è tipo il quarto 20 che mi fate. No, non è io ho detto. Io ne ho fatti solo due. Devo oggi. Confermarlo, no? Sì. Sì. Sono stolamente. Ma tanto non confermerai mai. 8 più 19. No, infatti, però che cazzo. Vabbè, colpisce. Però. Vabbè, comunque un D6 più qualcosa, no? Sì. È un D6 più 16. 20 danni. E ho ancora tutta la giugolare aperta. 20 danni? Ok. Sì. Tiri... 20 danni. Però, certo, quindi sì. Una decina di danni. Ok, anche e... meno. Sto figlio di puttana. A chi tocca? Continua a succhiarti sangue. Ah, perché è su round. Perché non mi attacca? Vuoi che ti attacchi? Su, attacca te. Fa full attack. Se ti attacchi, va bene? Avendo il cavenghetto poteva pensarci.

No, niente, è mancato, no? È ancora uno, no? Più 14. Ok, ma sono a più 4. Cioè, ho fatto 4 tiri. Devo farne ancora 2. No, qua hai meno attacchi, ovviamente. Sono più alti a tiro per colpire. Ma non posso integrarli meno con questi? Allora, scegli. O fai a più 19 o fai a più 15. Cioè, non è che puoi integrare. Cioè, cosa c'entra? Nel senso, vuol dire integrare. Che palle! Lui ci ha provato. C'è ancora un attacco. Vabbè, più 9. Vabbè, fai 20 magari. Dai, credici un po'. Ecco. Non ci ho creduto, vedi? Così impari a idolatrare i falsi miei. Idolatrare falsi miei. Mamma mia. Prova questo. Che tiri. Prova. A parte 20. No. Dovevi toccarlo 19! Uno. Bene, quindi niente. 15. Giusto, nulla di fatto. CD nulla di fatto. 16 è uscito. Hai visto? Io mortale. Tu sei morta. Come sei stata morti? È la prima cosa di fare a Bacca se sei ancora viva. Vabbè, io colgo la scimità. Che cazzo di ci ha sto tipo? Ti tocca? Hai retriever. Sai che se mi rubi la scimitarra poi te non le posso, guarda che prendo la scimitarra, cioè. Ecco i golden retriever. Tanto adesso tocca a lui, fa il fullatta che probabilmente mi killa se non lo uccide prima. Ok, tocca il retriever, quindi che attaccano. Cioè, se non lo uccido sono morto. Lui dice: deve esserci qualcuno di invisibile, cercatelo! Perché, cioè, li hai teletrasportati quando non è. Certo. Sono io che sono qua a teletrasportare la gente. Ci credono faccio tutti. Faccio una prova di... Bleffissimo. Quindi usano... Bisogna usare una standard action, penso, per fare... Mi puoi usare una standard action per cercare che tu mi... C'ho meno 2. C'ho 9. Sì, pare, sì. Tipo contro... Tu ti sei mosso, comunque sei in combattimento. Beh, non mi sono mosso, mi sono teletrasportato. Sì, comunque, mi pare che in combattimento... Cioè, Non sono in combattimento. No, è vero, non ti sei mosso, vero, hai ragione. Quindi niente. Cioè, hai più 20, comunque. Ah. Hanno stealth 20. Quindi devo fare una prova 40, di 40, non mi ricordo. Sì, fa una prova di stealth. Se non mi muovo, è più 40. Aspetta, adesso vedo. Metti in zero di dado, vai, fai. Ok, vabbè, non ti vedo. Guarda se hai più 20 o più 40. Comunque controllo. Se hai più 20 ti vede uno. Ah, ma devo fare anche il dado. Ma devo fare un tiro, scusa. Prova a farlo. Prova a farlo. Sono marci il dado più destrezza. Aspetta. Non mi sa che più 40. Dai. Vabbè, prima faccio il tiro. Dai, vedi, se fai più alto. 19, okay, niente, vedi, però ti cercheranno comunque. Mm-hmm. Ok, ora? Fanno con quei raggi. Non crediate. Fanno un raggio su. Fanno dei raggi su Damasco. Fai il tiro salvezza riflessi. No, devi farcela. Ce la fai. Però non 7, 15 più 7 l'ho superato. 22. Un altro? Sì, fa anche l'altro. 17 più 15. Okay, tranquillamente. Fatemi un po' di dissere. E a me non servono più. Per adesso? Cioè, vabbè, no, ma per dire che adesso non mi servono, quindi potete. Cosa fai? Se you gain più 40 bonus on okay, stealth okay. Check. 3, se sei immobile. 6, 7. Che stai facendo? E comunque devo tirarli, devi utilizzare. Sì. Sto moving. No, 6, 8, 6, 14, 16, 3, 19. Tu vampira. 20, 28. Non so quanto sia forte il vampiro come... 29, cioè, un botto di comunità e poi... 3, 34, difficile 22, da curare. Sì. Però... No, ma lascio il vampiro. 16 danni. Cioè, non è una cosa negativa. Che sì, no, no, infatti è forte, fortissimo. Cioè, poi forse c'è anche dei malus. Cioè, guarda questo di quanto è forte. Ma c'ha dei malus anche forse, no? Sì, c'ha dei problemi a essere curato. Sta luce del sole. Probabilmente ha lo... Non viene avere una bacchetta di infernali di lingua. Sì, sì. Beh, ma tanto siamo un luogo 12. Chiuso, quindi il mio problema sarà... La nave. Sì, non ti preoccupare, si trova un modo. Beh, no, tieni sopra un cappuccio, beh, con gli occhiali da sole, che ne so. Diventi il Michael Jackson della nave. 32, 33. La tua caratteristica 50, 40, 20 danni. Comincia a brillare. No, ti prego, abbassa. Sei ancora. Sei vero, bella. Il vampiro suicida. No.